Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani, nella persuasione che un futuro di giustizia e un futuro in sé siano possibili solo se la specie umana riuscirà a cambiare la propria posizione nel mondo, lasciando il piedistallo sul quale ha preteso di issarsi e accettando di essere parte di un tutto, fianco a fianco con le altre specie viventi, in un clima di collaborazione e non di dominio. È la puntata numero 663 e parleremo di cetacei minacciati, di cani liberi, di ricercatori che obiettano, di gatti e di potere. La colonna sonora è curata dal nostro Gabriele Palloni, che in quanto chef e DJ è anche l'autore della ricetta della settimana. C'è una marea rossa che uccide le balene. Accade lungo le coste argentine, in Patagonia, in particolare nell'area della penisola di Valdés, un golfo in cui è stata istituita una riserva naturale dedicata ai cetacei. Proprio lì, dove la protezione dovrebbe essere massima, 15 balene sono arrivate in spiaggia ormai agonizzanti o già senza vita. La causa, secondo i tecnici dell'Instituto de Conservación de Ballenas, sarebbe la cosiddetta marea rossa, cioè una fioritura insolitamente elevata di alghe tossiche, dovuta al surriscaldamento dei mari. Le tossine colpirebbero le vie respiratorie dei mammiferi marini, portando al soffocamento, ma agirebbero anche per le vie gastrointestinali e sul sistema nervoso. Il dottor Mariano Sironi, direttore dell'Istituto per la Conservazione delle Balene, ha spiegato che la crescita delle alghe è favorita dall'aumento della temperatura del mare dovuto al riscaldamento globale. A questo fenomeno si sommerebbe, secondo Sironi, l'eccesso di sostanze nutritive dovuto allo scarico di acque reflue e di effluenti industriali scarsamente trattati, nonché di fertilizzanti, che dai campi filtrano nei fiumi e nel mare, fornendo azoto, fosforo e altri elementi che le alghe utilizzano. Quel che più preoccupa è che il fenomeno non è affatto circoscritto alla Patagonia, ma è in aumento, dice ancora Sironi, in tutto il mondo. E questo è un segnale molto allarmante. Le balene, afferma ancora Sironi, sono vere e proprie sentinelle della salute del mare. La morte di queste riproduttrici adulte e sane conferma che ci hanno avvisato di un problema imminente che stava passando inosservato. Dobbiamo impegnarci in modo più attivo e responsabile nel rapporto con il mare e con le specie che lo abitano. Le balene e noi meritiamo un oceano più sano e privo di minacce. A conferma delle affermazioni del dottor Sironi circa la salute degli oceani e il ruolo dei cetacei come sentinelle della salute del mare, c'è una notizia che arriva dall'Oceania, dove nei giorni scorsi circa 250 globicefali, chiamati anche delfini pilota o balena pilota, sono morti dopo essersi arenati a nord-ovest dell'isola di Chatham, a circa 840 km a est della Nuova Zelanda. Poco più di 2 settimane fa circa 200 delfini pilota sono morti su una spiaggia della Tasmania, in Australia. Le cause di questi spiaggiamenti non sono del tutto note. I ricercatori hanno ipotizzato che potrebbero essere causati da gruppi di cetacei che si allontanano dopo essersi nutriti troppo vicino alla riva, ma ci sarebbe da chiarire il perché di tale avvicinamento. Il livello d'allarme è inevitabilmente altissimo. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind. La storia della specie umana sul pianeta Terra può essere letta anche come un lento percorso che dalla vita arboricola ha portato a terra fino ad assumere la posizione eretta, caratteristica di Homo sapiens. Molti altri primati vivono invece sulle piante, laddove naturalmente le condizioni di boschi e foreste siano tali da consentirlo. Ebbene, gli effetti del cambiamento climatico stanno arrivando anche lì, al punto di modificare le condotte di vita di molte scimmie. Uno studio internazionale, da poco pubblicato sulla rivista dell'Accademia Statunitense delle Scienze, afferma che il cambiamento climatico e la deforestazione stanno interferendo con lo stile di vita delle scimmie, spingendole a scendere dagli alberi. La ricerca, che ha coinvolto più di 100 ricercatori ed è stata guidata dall'Alleanza Statunitense per la Fauna Selvatica di San Diego, ha riguardato 150.000 ore di osservazione di ben 47 specie di scimmie e lemuri, in 68 diversi siti, dalle Americhe al Madagascar. Lo studio mostra come le temperature e la degradazione delle foreste spingono i primati a un uso maggiore dello strato terrestre, una scelta tanto obbligata quanto pericolosa, visto che gli animali a terra sono più esposti ai predatori, a contatti con umani e animali terrestri, oltre che più in difficoltà nella ricerca del cibo. Solo poche specie, stando ai risultati della ricerca, riescono davvero ad adattarsi alla vita terricola. Sono quelle che hanno una dieta più diversificata e che vivono in gruppi numerosi, nei quali è possibile sviluppare strategie di cooperazione. Già in passato, spiegano i ricercatori, erano stati osservati passaggi dalla vita arboricola a quella a terra, ma mai con la velocità degli ultimi tempi. Secondo gli studiosi che si muovono in un'ottica di conservazione, questa situazione richiede, per le specie meno adattabili, strategie di protezione rapide ed efficaci per garantire la loro sopravvivenza. I'm in a swirl of sorrow. Abbiamo chiesto a Claudio Santamaria, attivista, artigiano e scrittore del collettivo Troglodita Tribe, di raccontarci e commentare la storia di Willy, un cane che a Bari ha vissuto una vicenda speciale e che oggi non è più fra noi. I Troglodita Tribe, fra molte altre cose, hanno pubblicato un piccolo prezioso libretto, Chiudiamo i canili, pubblicato quest'anno dall'editore Ortica. Nei primi giorni di ottobre è morto Willy, il cane di quartiere del rione Sant'Anna a Bari che, lo scorso anno, aveva fatto discutere per un'ingiusta e sommaria detenzione in canile, sventata poi a furor di popolo. Un blocco renale lo ha purtroppo lasciato senza vita e a nulla sono valse le cure e le attenzioni di più di 500 persone che si sono messe a disposizione per le spese veterinarie. Willy, infatti, pur vivendo in un quartiere difficile, una sorta di non luogo che da più di 10 anni aspetta le indispensabili opere di urbanizzazione, era riuscito ad ambientarsi molto bene, a farsi conoscere e benvolere per il suo carattere amichevole. Taglia medio-grande, 10 anni, bianco e nero, Willy perlustrava il territorio seguendo i suoi itinerari, salutando gli amici dei negozi che lo sostenevano, seguendo i runner che lo conoscevano e lo apprezzavano. Willy lascia un grande vuoto nel quartiere, tanto che gli abitanti si stanno organizzando per avere un suo ricordo permanente, con una statua o con un murales. La storia di Willy è particolarmente interessante soprattutto per l'ingente mobilitazione avvenuta in seguito al suo accalappiamento. Era stato accusato di un'aggressione che non aveva mai commesso e la gente del quartiere si è subito ribellata pretendendo la sua liberazione, affermando che la libertà è un diritto, perché quando conosci un individuo, quando condividi con lui gli spazi e i giorni, quando entra a far parte della tua stessa comunità, la libertà è un valore talmente naturale e ovvio che non può più essere messo in discussione. E non è neppure necessario essere attivisti o volontari, è proprio una questione di buon senso, sì, anche quando quell'individuo è un cane. Ma la storia di Willy, in realtà, è una storia comune a molte altre, soprattutto nel centro e sud Italia, dove la legge consente l'adozione collettiva dei cani di quartiere, dei cani liberi accuditi, mentre nel più organizzato ed efficiente nord questa pratica non è neppure ipotizzabile, in Campania, per esempio, con la legge 3 del 2019, si riconosce testualmente il diritto del cane ad essere un animale libero, mentre in Sicilia, sempre più spesso, si ricorre alla sterilizzazione, relativo censimento e reimmissione sul territorio. Le storie dei tanti Willy presenti in Italia, poi, sembrano volerci dire anche che la comunità dei cani è pronta per tornare a convivere con noi, nei nostri insediamenti, nelle nostre città come nelle nostre campagne. Sono pronti per tornare a farlo nell'unico modo possibile e accettabile, senza canili, senza catene, senza l'odiosa necessità di essere rinchiusi o di diventare dei pupazzi da compagnia. Forse dovremmo cercare di ascoltare con più attenzione queste storie. Dovremmo provare a mettere in discussione il nostro stesso immaginario legato al cane, proprio quell'immaginario che lo connette indissolubilmente ad un padrone. Dovremmo ammettere che c'è qualcosa che non funziona nell'industria del pet, in quell'idea di cane merce che si vende, si compra e si rottama nei canili, in base alle esigenze, alle mode, alle carenze affettive o ai capricci del momento. Sì, solo ascoltando i cani, che quando sono liberi nei nostri insediamenti cominciano a comunicare, a mostrare la loro personalità, il loro desiderio di integrarsi e interagire, riusciamo a conoscerli davvero e a vedere con chiarezza quello che desiderano. Perché sono proprio i cani che si sono evoluti insieme a noi nel corso dei millenni, che continuiamo a definire come i nostri migliori amici, a chiederci quel passo indietro, quella rinuncia al dominio e alla presunta superiorità che è indispensabile per riuscire a immaginare e realizzare una nuova convivenza, delle altre architetture, dei più alti livelli di comunicazione fondati finalmente sul reciproco rispetto, sul reciproco prendersi cura gli uni degli altri. A Rione Sant'Anna di Bari, grazie a Willy, ci stavano provando, un esempio e una lezione, purtroppo in netta controtendenza, da seguire, proporre e praticare. Non si smette mai di parlare di gatti, questi impareggiabili filosofi della vita quotidiana, e non si smette di pubblicare libri che parlano di loro e, come in questo caso, degli umani che vivono con loro. Alludiamo al libro della giornalista e scrittrice torinese Carola Vai, dal titolo Gatti di Stato, fra uso pubblico e passioni private, edito da Rubbettino. È un libro che si propone di raccontare i grandi del mondo, o meglio i potenti del mondo, raccontati attraverso i loro gatti, in un intreccio fra pubblico e privato che fa leva su innumerevoli aneddoti. Si parla per esempio di Jock, inseparabile amico di Winston Churchill, o dei famosi gatti del Museo Ermitage di San Pietroburgo, dove i felini furono introdotti dallo zar Pietro il Grande e dove tuttora risiede una celebre e coccolatissima colonia. Ci sono naturalmente i gatti passati per la Casa Bianca, a cominciare da Sox, che ebbe un momento di celebrità durante la presidenza Clinton, per arrivare ai gatti di Kennedy, Bush Jr. e Joe Biden. E poi ancora, in un rapido elenco attraverso paesi ed epoche storiche, ecco i gatti dell'imperatore romano Cesare Augusto, quelli del faraone Tutankhamon, della regina Vittoria, dei papi Leone XIII e Paolo VI, fino a Papa Ratzinger, anche lui noto amico dei felini. È curioso il caso britannico, visto che a Downing Street i gatti acchiappatopi sono, diciamo così, stipendiati dal governo, e hanno costretto i primi ministri a rispondere alle domande su di loro in conferenza stampa. È successo anche a Boris Johnson con Larry, un gatto che è stato capace anche di ritardare la partenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con l'auto blindata, visto che vi si era nascosto sotto. Gatti di Stato, fra uso pubblico e passioni private, di Carola Vai, editore Rubbettino. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't care about you, it's Friday I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, oh Thursday doesn't even start, it's Friday I'm in love. Saturday Sunday always comes too late, but Friday never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love. Si chiama Dichiarazione di Montréal ed è un testo firmato da 450 fra ricercatori e docenti in filosofia morale e politica per affermare, fra le altre cose, che mammiferi, uccelli, pesci e molti invertebrati sono senzienti, cioè capaci di provare piacere, dolore ed emozioni. Questi animali sono soggetti coscienti, hanno cioè una loro prospettiva sul mondo che li circonda. Quando feriamo un cane o un maiale, quando teniamo in cattività un pollo o un salmone, quando uccidiamo un vitello per la sua carne o un visone per la sua pelle, contravveniamo gravemente ai loro interessi fondamentali. Gli studiosi con questa dichiarazione intendono schierarsi contro lo sfruttamento animale. Il nostro lavoro, dicono, è radicato in diverse tradizioni filosofiche e raramente ci troviamo in accordo fra di noi. Concordiamo, tuttavia, sulla necessità di una profonda trasformazione delle nostre relazioni con gli altri animali. condanniamo le pratiche che comportano il trattamento degli animali come oggetti o merci. E ancora, nella misura in cui comporta violenza e danni inutili, dichiariamo che lo sfruttamento degli animali è ingiusto e moralmente indifendibile. La dichiarazione di Monreale è stata diffusa in Italia da Essere Animali e Animal Law Italia, un coordinamento impegnato nelle azioni legali a difesa della dignità animale. La dichiarazione ha una chiara impronta antispecista e può essere considerata un altro mattone nella costruzione di una nuova visione della convivenza fra esseri terrestri. La mia vita a un chilometro da qua, so quello che ho, la certezza di ogni novità è il senso di abitudine già dalla sua metà. Ma se non fermassi qua, guidando fino a che, fino a svanire e ridere, morire oppure rivivere. Questa settimana Gabriele Palloni è stato impegnato nella prova di inventare una ricetta rigorosamente cruelty free a partire da uno dei temi affrontati nel corso di questa puntata. Vi ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Sentiamo che cosa ci propone. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Una ricetta tradizionale argentina è cruelty free? Dite che è impossibile? E invece no, oggi vi racconto come fare il mantecol, barrette dolci e super proteiche a base di arachidi. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di arachidi tostate e spellate, 150 g di zucchero di canna, 40 ml di acqua faba, 2 cucchiai di olio di semi di girasole, 4 cucchiai di acqua, della vaniglia e un pizzico di sale. Mettete le arachidi in un mixer, aggiungete l'olio e lavorate fino ad ottenere un composto omogeneo, in pratica un burro di arachidi. A parte, in un pentolino fate uno sciroppo di zucchero, mettete sul fuoco lo zucchero di canna e l'acqua e fate sobbollire a fuoco medio. Lasciate cuocere mescolando con un mestolo di legno fino a quando lo sciroppo avrà raggiunto un colore ambrato, quindi togliete dal fuoco. Adesso montate l'acqua faba a neve ferma con un pizzico di sale. E sempre mescolando unite il caramello a filo, lavorando fino a quando il composto diventerà tiepido. Aggiungete la vaniglia e mescolando delicatamente con una spatola unite la meringa al composto di arachidi. Quando tutto sarà ben amalgamato e incorporato, versate in uno stampo di vetro di circa 15 cm di lato, che avrete precedentemente ricoperto di pellicola. Livellate uniformemente con una spatola, coprite con un altro foglio di pellicola e lasciate rassodare in frigo per almeno 12 ore. Togliete dallo stampo e tagliate a quadretti o in due rettangoli dei quali ricaverete delle fette. Potete consumare subito o conservare in un contenitore ermetico nel frigo per una settimana. Chiudiamo la puntata proponendovi una nuova lettura presa dal libro Cronache e Ribelli di CR Edizioni, un almanacco, come recita il sottotitolo, di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. 250 storie di lotta, coraggio e amore. È un repertorio che giorno per giorno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, riporta avvenimenti, ritratti di personaggi che hanno fatto la storia. Non sono persone potenti, ma persone che hanno lasciato un segno, in vari ambiti della lotta sociale, ambientale, culturale e politica. È un almanacco speciale, non solo perché invita a guardare la storia dal basso e dai lati, non più nell'ottica del potere, ma anche perché include personaggi non umani, quelli che Anna Maria Ortese chiamava le piccole persone. Oggi vi proponiamo la vicenda di Julia Hill, proposta nell'almanacco per la data del 5 giugno, giornata dell'ambiente. Ha solo 7 anni Julia Hill, quando una farfalla le si posa su una mano durante un'escursione e lì rimane per l'intera giornata prima che la bambina la rimandi nei boschi. Sembra fantasia, e invece è realtà. Da quel giorno per tutti lei diventa solo butterfly, farfalla. Un segno premonitore per lei, che sceglierà di dedicare la vita alla difesa della terra. Il 10 dicembre 1997 sale fino a 55 metri, arrampicandosi sul punto più alto di una sequoia, che ribattezzerà Luna. Lì in cima, a un passo dal cielo, questa ragazza di 23 anni rimane per 738 giorni. 738 giorni per proteggere una foresta millenaria che la Pacific Lumber Company stava per disboscare. Prima di Julia, nessuno aveva resistito per più di 42 giorni su una pianta. Lei invece ci resta oltre 2 anni, vivendo su piattaforme temporanee poco più grandi di 1 metro quadrato, esposta alle intemperie, alle minacce dei tagliaboschi, agli attacchi degli elicotteri armati di idranti. Anche se all'inizio sembrava incredibile, grazie alla sua tenacia, Julia ha ottenuto la sua vittoria. La Pacific Lumber Company ha accettato di non abbattere la sequoia e gli altri alberi secolari. Negli anni seguenti Luna è stata oggetto di un grave attacco vandalico, da cui però si è ripresa anche grazie all'intervento di numerosi attivisti che hanno costantemente presidiato il suo tronco. Oggi si tengono incontri e manifestazioni sotto la sua chioma, diventata un simbolo di resistenza alla deforestazione selvaggia. Dopo la discesa, Julia è rimasta una convinta attivista per i diritti dell'ambiente. Si batte ancora per preservare gli ecosistemi, contro la povertà e per i diritti di tutti. Insomma, la farfalla non ha smesso di volare. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Reggioli, Valentina Baronti, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.